Ma già hai cominciato, ma sei una faccia di minchia. Questa canzone è dedicata a Maria Piana De Simone, mio unico amore. Pure a patata. Perché Virginia non mi fa le bombe. Sei triste? Povero Puccio. Perché mi manca l'Irlanda. Chi? L'Irlanda. Va buono, hai una buona ragione stavolta. Che? Tutto quando sei triste e basta. Per particolare uno. Che dia pizza? Ah, grazie. Bello, frisca. Buono, buono. E finisce il video. Ciao ragazzi. Ma stai facendo un video?